se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire? Ah, te non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. No. Mercoledì 27 agosto 2014 è ritornata pure 25 o'clock che ma quali vacanze. Minuti primi. Siete sintonizzate e sintonizzati sulle 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale per alcuni. E questo è 25 o'clock. Però forse dovrei avere una dizione più. E questo è 25 o'clock. Troppo serio. Iniziamo come al solito ricordando i contatti della radio. Il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 17 50. Eh sì, perché trillando qui a Radio Onda Rossa, come per magia, si va ad accendere una lucina. Che illumina di rosso la radio più rossa che c'è. Altro punto di riferimento è il sito, raggiungibile al www.ondarossa.info. Dove oltre che poter ascoltare la diretta in streaming potete rimanere aggiornati attraverso le notizie, i redazionali, i podcast delle trasmissioni. Nonché potete aiutare a mantenere in vita questo progetto editoriale libero dal 1977 e trillano. Sì, dicevamo, potete aiutare a mantenere in vita questa radio andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati alla pagina con tutte le coordinate per sottoscrivere oppure attraverso lo storico conto corrente postale al 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Valci 56 00 185, Roma San Lollo. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info. Nonché le email di trasmissione. E quindi fantasma@ondarossa.info o 25 o'clock@ondarossa.info. Bene, bene. Quindi questa sera sono l'unica presenza non fisica di 25 o'clock, perché il professore è ancora saltarellando in giro. Però c'è mica che è 25 o'clock qui. Ci lasciamo intimorire, perché ci è venuto a trovare come special guest quindi buonasera Gigio. Buonasera. Quindi ci è venuto a aiutare questo demonietto con le selezioni di questa sera. Noi cominciamo subito così a urto, tanto quello sappiamo fare. E loro sono i Wizard da Roma, orora defunti. E questa è la loro Mankind is the Devil. Questo era un lavoro del 2006, se non erro, dei Blackland, lavoro che riuscirà adesso con una ristampa dove verrà riusato il nome originale dei Blackland, che era Wizard. E già sotto vanno i Discharge, da un disco del 1982, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. E questo è Drunk with Power. Ricordiamo l'appuntamento a ricordo di 8 anni dall'assassino di Renato. Non abbiamo perso la determinazione di raccontare la sua storia, le sue passioni e attivare l'ingranaggio della memoria. In 8 anni però abbiamo vissuto sulla nostra pelle, nella consapevolezza di un'intera città, che l'unico modo per far vivere quella memoria e fare in modo che fortifichi le radici per il futuro è farla vivere nel presente, nella creazione di percorsi e progetti, di incontri e nessi, di battaglie e resistenze. Rinois 2014, Naturally Against Fascism. E quest'oggi c'è stato il torneo di beach rugby, poi proseguito in un aperitivo no, al bilancione occupato. E ricordiamo l'appuntamento del 30 agosto al Parco Schuster, quindi dalle 17:30 un'assemblea pubblica. E poi un concerto dalle 19 con Citizen Kane, Solte, Cause for Cause, maleducazione alcolica, Wojaja, Radici nel cemento, per poi concludersi con Radio Torre. Invitiamo a partecipare a tutte e tutti. e dopo il sano crust dei Venom. Il crust di Welcome to Hell. Passiamo agli Acid Bath. Da un disco del 1994. Sono i Testament. È il disco Practice What You Preach. Pratica quello che predichi. E questa è la canzone che dedicano alla loro nazione, Perilous Nation. Nazione pericolosa. Testament degli Stati Uniti d'America. Bold is the one who dares to say what he feels. Let the 23 e 11 minuti primi. Siete sempre sulle 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è 25 O'Clock. Noi riniziamo le trasmissioni nel segno del trash, che dopo i Testament ci sono gli Overkill. E queste erano le prime due tracce di apertura di Horoscope degli Overkill. E ci spostiamo in Svizzera. E loro sono i Coroner, da Punishment for Decadence. E questa è Sudden Fall. We'll be right back. dalla Svizzera all'Olanda. Loro sono gli Asphyx. E questa è la loro Death Hammer. E la gentilezza degli Asphyx serviva di introduzione ad un gruppo di Latina, qui del loro ultimo disco con Cognizione di Causa. Loro sono gli Itzubo. E questo è 25 o'clock. e dopo i calci in bocca degli Tsubo. È come segnare un punto su quello che è il death metal e il grind. E quindi cambiamo registro. Dopo tutte queste legnate ci facciamo una birra. Probabilmente il gruppo più alcolico del mondo. Loro sono gli Orange Goblin, dai pub di Londra. Qui da un disco del 2006, Healing Through Fire. Eh sì, decisamente un gruppo che induce all'alcolismo. Sempre meglio di loro, eh? Loro sono i peggiori. I Death SS. E questa è Chains of Death. Now. è lui il più coatto di tutti. E noi, visto che ricominciamo con 25 o'clock, riproponiamo ciò a cui siamo affezionati. Loro sono gli Obophobic. We'll be right back. smettere mai. Da qui, perché da qui si arriva in fondo, perché da qui si ricomincia a lottare. Cercando di non smettere mai, cercando di non smettere mai. Sono le 23 e 54. Anime perdute nella peggior attività, e adesso piangi perché subiamo la realtà. Ma è l'esentazione che attraversa, come sempre tutto tace. E andiamo a chiudere questa trasmissione e le trasmissioni in diretta di mercoledì. Piangi pure lì che puoi, come 27 agosto. La parola forte, la sconfitta. Trasmissione che torneranno in diretta domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa, per poi proseguire con i redazionali della mattina. Il giornale radio delle ore 13. Dalle ore 14 Visionari, la trasmissione sul cinema. Dalle ore 16 Attica Blues. Dalle 17 La Eschina del Sol, Bella Martis. Diciotto e 30 Profondo Rosa, forse. Il giornale radio delle 19:30 Allegro con fuoco, la trasmissione di musica classica di Radio Onda Rossa dalle 20:15. Tutto sembra essere mai nuovo, come se tutto si sgrasse, tutto si ancora niente. Sono qui adesso. E poi dalle ore 21 le repliche del nostro Fagiolino. A cui dedichiamo il saluto più caloroso. Insieme alle compagne e i compagni attualmente reclusi o in condizioni di limitata libertà personale, il momento giusto, il modo di agire. Ora lo vedo di più. loro da Milano sono i Kalashnikov. Questa è la loro angoscia rock. Oh, non me ne vogliono Francesca e Francesca. I Senza Sicura sono pronti. Questa è per voi, bella. Dopo Senza Sicura vi salutiamo così, sotto la luna comunista. Dai. Hey brother, won't you please open up your heart for me now, and sister.